Mix 24 di Giovanni Minoli. La Turchia si è spaccata in due sul voto sul presidenzialismo, le opposizioni denunciano brogli e irregolarità, ma lui, Erdogan il sultano, non ci fa caso. Anche gli sconfitti hanno dato vita a manifestazioni di protesta per denunciare le evidenti anomalie in fase di conteggio dei voti. State al vostro posto, il voto è stato democratico, ha tuonato il presidente, ma per Erdogan l'Europa è sempre più lontana. Buongiorno, bentornati su Mix 24, Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Ecco, il risultato del referendum in Turchia è stata una sorpresa per lei? No, non è stata una sorpresa. Devo dire che mi sarei aspettato una maggioranza più comoda. Ha vinto in modo piuttosto risicato. Ecco, ma quei 2,5 milioni di schede contestate non sono un po' troppe? Assolutamente, ma questo potevamo darlo per scontato, sapevamo che in qualche modo la vittoria sarebbe stata organizzata, ma è sorprendente che nonostante la vittoria organizzata il margine di successo è veramente piuttosto modesto. Devo dire che non è la prima volta che constatiamo una vittoria risicata. Risicata è stata quella di Trump, risicata è stata quella della Brexit, e tutte queste elezioni hanno, mi sembra, un dato comune: sono straordinariamente divisive. Creano all'interno della società dei partiti contrapposti. Non dimentichiamo che anche per esempio in Inghilterra Londra ha votato contro la Brexit. Insomma, Erdogan, questo è particolarmente evidente. Continua la contrapposizione tra popoli e elite? Sì, in un certo senso sì, perché nel caso certamente di Erdogan, quello che gli ha permesso di avere una maggioranza, sia pure in parte fittizia e contestabile, è stata certamente quella della Turchia profonda, dell'Anatolia. Infatti. Hanno votato contro le città, Istanbul, tutte le città, Smirne, sì. Ankara. Insomma, mi sembra che sia stata una vittoria difficile. Ecco, però la Turchia è diventata anche un enorme prigione per dissidenti, per giornalisti, a differenza dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, diciamo, questo fa la differenza? Beh, questo è per noi uno straordinario motivo di imbarazzo, perché non possiamo naturalmente non criticare, non assumere posizioni forti nei confronti di tanti soprusi di questo genere, ma d'altro canto i primi a rendersene conto saranno gli Stati Uniti. La Turchia è necessaria, in questo momento non soltanto necessaria, ma forse addirittura indispensabile, perché se davvero il Medio Oriente è una polveriera e l'ISIS è una reale minaccia anche per le civiltà occidentali, senza la Turchia non possiamo combinare nulla. Ecco, ma la Turchia, quale Turchia? La Turchia sognata in qualche modo agli europei non esiste in realtà. Non, certamente no, anche se bisogna riconoscere che una certa colpa l'abbiamo anche noi. Se fossimo stati più generosi nel momento in cui il sostegno della Turchia alla prospettiva dell'ingresso nell'Unione Europea era veramente maggioritario, se fossimo stati più generosi naturalmente le cose sarebbero andate diversamente, ma non dimentichi che per esempio Germania e Francia erano chiaramente, esplicitamente contrarie all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, e questo ha avuto una parte nell'indurre in Erdogan, nel persuadere Erdogan che la strada doveva essere diversa. Però l'Europa ha stretto un accordo vitale con la Turchia sul controllo dell'immigrazione a caro prezzo, diciamo, pagandola caramente. Possiamo sentirci comunque protetti da questo accordo oppure no? Ma per il momento l'accordo ha funzionato e devo dire che per esempio la Germania, lo dimostra l'atteggiamento della signora Merkel, non ha alcuna intenzione di rinunciare a quell'accordo. Ripeto, la Turchia ci è non soltanto utile ma necessaria e forse anche addirittura indispensabile, e questo ci rende terribilmente difficile vivere con lei, perché tra l'altro pensi alla questione curda. Certo. I curdi, voglio dire, in un certo senso escono moralmente rafforzati da questa vittoria di Erdogan, e diventano sempre più un modello a cui dovremmo assicurare il nostro sostegno, il nostro appoggio. Ma potremmo farlo se abbiamo bisogno della Turchia a questo punto? I soldi e la politica, insomma, gli interessi e la politica che si contrappongono sempre di più. Direi la geopolitica, nel senso che quello che veramente ci interessa è la presenza di una base militare. La base militare naturalmente è quella di in Cirkec, che gli americani continuano ad usare, anche se per altri aspetti sono naturalmente su posizioni molto critiche nei confronti della Turchia. Ma è immaginabile un'uscita della Turchia dalla NATO, secondo lei? Io credo che a questo punto il coltello dalla parte del manico ce l'ha, mi pare, Erdogan. Ma i turchi all'estero sono stati una forza enorme nelle mani del regime. Li userà per condizionare la politica degli stati europei? Germania in testa? Beh, devo dire che la posizione dei 3 milioni di turchi che vivono in Germania era per certi aspetti prevedibile, era una posizione di tipo nazionalistico. Non bisogna dimenticare che la Turchia era stata considerata un paese di terza fila sotto il profilo economico, sotto il profilo civile. Ora, da questo punto di vista, in questo momento la Turchia è una potenza. E non c'è niente da fare, le comunità all'estero di qualsiasi paese sono in qualche modo rinvigorite, incoraggiate dal fatto che il loro paese conti di più sulla scena internazionale. Noi abbiamo interessi molto forti in Turchia. Cosa deve fare l'Italia secondo lei, per esempio nel caso ci fosse una reintroduzione della pena di morte? Ma io credo che la pena di morte naturalmente susciterà, come dire, le critiche unanimi dei paesi democratici, ma ho l'impressione che finiremmo per accettarla. Dopotutto la pena di morte esiste anche in alcune grandi democrazie occidentali. Cioè negli Stati Uniti, per esempio. Come gli Stati Uniti. Senta, la Germania ha relazioni difficili, però Berlino può andare avanti su una linea di relazioni così tese oppure è solo un problema elettorale? Beh, io credo che molto dipenderà anche dal risultato delle elezioni tedesche. Se il vincitore dovesse essere Schulz, probabilmente assisteremmo a un peggioramento dei rapporti con la Turchia. Se vincerà la Merkel... La Merkel è una grande navigatrice, finirà a un certo punto per assumere le posizioni critiche che le saranno in qualche modo rese obbligatorie dalla comunità democratica, ma finirà anche per convivere con la Turchia come con un alleato necessario. Quindi lei dice tanto rumore per nulla? No, molto rumore, il rumore fa sempre chiasso, non c'è niente da dire, però il paese è necessario. Se il paese è necessario, qualche accordo si finirà per fare. Si finirà pur per doverlo accettare. Ma questa violentissima stretta sull'informazione globale, giornalisti di tutto il mondo, secondo lei costringerà in qualche modo Erdogan a mollare un po' oppure andrà dritto per la sua strada? No, vedi, la mia personale convinzione è che Erdogan, pur essendo consapevole che la sua vittoria è stata piuttosto risicata, sarà in qualche modo incoraggiato da questo mezzo successo elettorale ad essere ancora più rigido, ancora più dittatore di quanto non fosse in passato. Questo è nella natura dell'uomo, il giudizio è più caratteriale che non politico. Quindi sul piano costituzionale i poteri che gli vengono dati li userà e li userà in modo visibile? Credo di sì e credo che, ripeto, noi saremmo presi un po' per la gola, costretti a lavorare con questa Turchia, anche se non l'amiamo, anche se la consideriamo incompatibile con i nostri ideali, con i nostri principi. Non sarà semplice e soprattutto credo che avremo delle grosse difficoltà con la questione curda, perché i curdi escono in qualche modo rafforzati, sono una forza democratica o potenzialmente democratica a cui dovremmo assicurare il nostro sostegno e moralmente probabilmente cercheremo anche di farlo, ma al tempo stesso non potremo non permettere alla Turchia di condurre la sua battaglia contro i curdi nel modo in cui l'ha fatto sinora. Quindi una geopolitica molto sul filo del rasoio è quella che aspetta l'Occidente, l'Europa soprattutto nei confronti della Turchia. Certo. Niente più imbarazzante di questa situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ecco, un'ultima cosa, secondo lei è immaginabile una rivoluzione in Turchia? Ma questo sì, credo che sia forse immaginabile, perché non bisogna dimenticare, ripeto, queste elezioni, la Turchia non è la sola, sono state profondamente divisorie. Certo. E io ho l'impressione, guardando agli Stati Uniti, che il paese sia spaccato. Credo che sia spaccata anche la Gran Bretagna per molti aspetti, e anzi che stia rischiando la disunione soprattutto nella Scozia e nell'Irlanda del Nord. Nel caso turco poi non dimentichiamo che le minoranze sono straordinariamente importanti. Certo. Il paese sì è turco, ma è soltanto parzialmente, la maggioranza è certamente turca, ma gli alaviti e poi i cristiani e poi le minoranze minori di cui noi non parliamo perché non le conosciamo abbastanza, ma il paese non è certamente omogeneo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma, secondo te questa realpolitik di cui parla Romano nei confronti della Turchia, che ci piaccia o no, sarà quello che dovremo digerire? Sì. Sì, perché alla fine noi abbiamo avuto già un banco di prova importante, noi Occidente intendo dire, e soprattutto gli Stati Uniti, quando ci fu il tentato colpo di Stato in luglio del 2016. E nel giro di poche ore, in una notte, avemmo prova che quel colpo di Stato non era reale, non c'era, non aveva il sostegno. E gli Stati Ma Uniti... poi non abbiamo neanche la prova di sapere di chi era quel colpo di Stato. Ma infatti lì sto arrivando. Sei arrivato al punto. E non abbiamo mai capito in realtà chi fosse, se ci fosse una manina o meno, se c'è stata una manona o meno dietro questa cosa, non lo sappiamo. Ecco, ma... Cioè, volevo chiedere una cosa a Pietrangelo. Il paese è troppo grande per Pietrangelo, secondo te c'è un'analogia fra Erdogan e Gheddafi? Io l'analogia la farei paradossalmente in Europa. È il 18 Brumaio. E Marx aveva ben spiegato il meccanismo e la dinamica. È il cesarismo. C'entra ben poco l'elemento tribale, come nel caso di Gheddafi, c'entra perfino ben poco l'elemento islamico, se non in una efficacia propria del lievito che fa crescere una personalità. Qui siamo di fronte a un caso di cesarismo conclamato, posso dire un paradosso, a lui è riuscito il referendum che non è riuscito a Matteo Renzi, si parla licet. Si parva licet, perché la realtà... E chi è il parva? Il parva lo sappiamo chi è, purtroppo ai noi il parva è perfino l'Italia, perché nel contesto internazionale, e prima l'ha spiegato bene Sergio Romano e poi anche voi nel vostro dialogo prima, la presenza della Turchia nello scenario internazionale è pesante, molto. E si trova adesso nella condizione di avere anche un leader rafforzato, malgrado la vittoria risicata, è rafforzato ed ha il coltello dalla parte del manico. Ed è rafforzato anche dalla sua appartenenza o comunque rappresentanza del Partito Islamico. Beh, sai, quella realtà è un po', sempre facendo un paragone con la storia, un po' come l'idea di immaginare una democrazia cristiana, una democrazia cristiana in chiave islamica. Non ci sono gli elementi per stabilire un presupposto di teocrazia, sì. Piuttosto l'unica realtà che possiamo definire teocratica, qual è la Repubblica Islamica Iraniana, è in una società teocentrica più che teocratica, nel senso che è perfino blasfemo immaginare che possa esistere in Turchia oggi una teocrazia. Cioè, sì, in questo senso dici democrazia cristiana. Semplicemente è un'identità forte che è radicata poi nelle campagne, radicata nelle ampie aree della geografia anatolica, non certamente nelle città. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Una guerra nucleare improvvisa potrebbe scoppiare da un momento all'altro nella penisola coreana. La nostra pazienza è finita, parola di Mike Pence, il vicepresidente americano in visita nella zona demilitarizzata tra le due Coree in guerra. Se gli Stati Uniti oseranno scegliere l'opzione militare, risponderemo. Sarà guerra a tutto campo se gli USA saranno così spericolati da usare mezzi militari. Sarà fondamentale il ruolo del gigante che tiene sostanzialmente in piedi con i suoi aiuti il regime di Pyongyang, la Cina. Gianandrea Gaiani, buongiorno, direttore di analisi difesa. Ecco Gaiani, Kim Jong-un è davvero un pericolo reale e imminente oppure dipende dalla Cina? Pericolo reale imminente perché ha un arsenale nucleare, un 15-20 testate, 15-20 armi atomiche, non sappiamo se già disponibili sotto forma di testata per i suoi oltre 1000 missili balistici che ha prodotto, e poi perché ha un arsenale chimico di cui non parliamo mai, ma che è utilizzabile anche con cannoni e razzi a lungo raggio che sono a tiro della capitale sudcoreana Seul, ecco, che è a 40 chilometri. Gaiani, noi pensiamo, diceva anche lei, che abbia 10-12 bombe atomiche, Kim, ma riesce a lanciarle? Cioè il rapporto fra la bomba atomica che c'è e i vettori è consolidato, definitivo, attivo? Allora, noi sappiamo che negli ultimi test che ha fatto ha testato un'arma nucleare inserita dentro uno dei suoi missili balistici, dentro ed è fallito. Missilistica. No, il test che fece l'anno scorso sembra sia riuscito. Non sappiamo se dalla fase di sperimentazione si è già arrivati alla fase di produzione di armi nucleari impiegabili sui missili. Diversamente, le bombe atomiche sono lanciabili con aeroplani, come certo, è già accaduto anche in passato. Certo. Ma dove possono arrivare queste bombe atomiche? Vabbè, se vengono lanciate con aeroplani, possono arrivare dove arriva l'aeroplano? Sì, diciamo che la capacità che hanno i nordcoreani di impiegare aeroplani della loro forza aerea, che sono numerosi ma sono piuttosto vecchiotti, e senza essere intercettati sono molto scarse. Però molto diciamo difficile. Che sicuramente la capacità nordcoreana di devastare la Corea del Sud con armi di distruzione di massa, nucleari o chimiche, è consolidata, cioè, ed è impossibile evitarla. Cioè la Corea del Sud può lanciare una bomba atomica sulla Corea del Nord? Questo. No, la Corea contrario, del Nord è in grado di devastare la Corea del Sud, sì, poi esatto, se riesce con i suoi missili, imbarcandovi sopra testate chimiche o anche addirittura nucleari, se ne avesse la capacità, potrebbe raggiungere sicuramente il Giappone, alcune basi americane del Pacifico, penso a quella all'isola di Guam o nell'isola di Okinawa dove ci sono basi dei Marines, e poi c'è la possibilità, anche se gli ultimi test hanno dato parere contrario, che i missili a lungo raggio nordcoreani possono cercare di raggiungere il territorio degli Stati Uniti. Ecco, sappiamo però che intorno ci sono anche le difese antimissile della flotta americana, che però non c'è perché abbiamo scoperto che la portaerei Vinson in realtà è nell'Oceano Indiano e non nelle acque della Corea del Sud. Cioè non stava viaggiando verso la Corea del Sud? No. Ieri è emerso durante questo weekend pasquale a causa di un fotografo della Marina americana. Cioè era una bugia? Allora, la portiere Carl Vinson e col suo gruppo d'attacco, che doveva essere l'invincibile armada contro Pyongyang, si trova nelle acque di Sumatra, quindi a 5.000 km dalla Corea del Sud, si è diretta questa mattina verso la Corea, ci arriverà verso la fine del mese. E quindi insomma anche tutto quello che abbiamo, l'escalation di questi giorni, è stato un parziale bluff, almeno bluff. Dal punto di vista americano. Ecco, quindi bluff addirittura sui movimenti della portaerei, ma in ogni caso quando eventualmente arrivasse può bastare come arma di dissuasione? Qual è l'armamentario di questa portaerei? Ma io penso di no, perché i suoi 60 aerei da combattimento, o anche unendoli ai velivoli che gli americani già schierano in Corea del Sud, in Giappone, che sono facilmente rinforzabili da altri aeroplani dall'America, dall'isola di Guam, e sono un deterrente importante, sono un'arma d'attacco importante. Ma il problema con la Corea del Nord, che si è dotata di una bomba atomica proprio per evitare di subire attacchi del genere, per intenderci di fare la fine di un Gheddafi o di un Saddam Hussein, La domanda è questa: un attacco anche preventivo americano avrebbe la possibilità di scongiurare qualunque tipo di rappresaglia da parte della Corea del Nord? Ah, ecco, lei ci ha fatto la domanda chiave, mi dia la risposta. La risposta è no, la totale certezza non l'avremmo, e il rischio è che a pagare il prezzo di una guerra del genere siano i 12 milioni di abitanti di Seul o i 25 milioni di sudcoreani che vivono a ridosso del 38esimo parallelo. Senta Gaiani, ma a questo punto sta tutto nelle mani della Cina, cioè la Cina deve decidere da che parte stare? La Cina ha un doppio problema con il regime di Pyongyang, che è suo alleato. Da un lato il riarmo nordcoreano mette in imbarazzo i cinesi, perché sta giustificando la corsa al riarmo della Corea del Sud e del Giappone. Abbiamo visto adesso le polemiche per lo schieramento in Corea del Sud di un sistema. No, d'accordo, ma io volevo sapere, la Cina di fronte a questa ipotesi o questa possibilità di come dire, di usare l'armamentario nucleare, deve decidere da che parte stare? Sì, soprattutto perché la Cina ha bisogno di quel regime, o comunque ha bisogno di controllare la Corea del Nord, quindi tra le sue opzioni ci potrebbe essere anche un cambio di regime, se è in grado di pilotarlo da Pechino. E comunque non può permettersi che ci sia il crollo di quel regime, perché la riunificazione della penisola coreana sotto l'egida di Seul, un po' come è accaduto con le due Germanie sotto l'egida di Berlino, porterebbe quei 30.000 militari americani che oggi sono nel sud della Corea a ridosso del confine cinese. Ecco, quindi ma se la non Cina si ha questo imbarazzo. Ecco, ma è un imbarazzo però che è di breve respiro, cioè c'è una scelta da fare poi a un certo punto. Diciamo che è un imbarazzo che dura da anni, ma Trump, la sua iniziativa politica, più che quella militare, che mi pare si stia rivelando un po' farlocca, se mi passi il termine, proprio la sua iniziativa politica è quella di obbligare la Cina a decidere in fretta, quindi di lasciare il problema in eredità ai cinesi, ecco, minacciando un intervento militare americano. E quindi lei prevede più facilmente un cambio di regime in Corea? No, io faccio fatica a fare previsioni perché non ho abbastanza elementi circa la capacità cinese di influenzare o di modificare addirittura la leadership di quel regime, che ricordiamocelo è un regime che ogni qualche anno o anche volte ogni qualche mese elimina molte delle sue figure chiave, soprattutto militari, forse proprio per pararsi dal rischio di golpe interni. Senta, ma lei crede allora, al contrario, a una possibilità di un colpo americano? Di un primo colpo americano? Io credo che quando c'è un confronto fra potenze nucleari, entrambe le potenze nucleari cercano di, non escludono il first strike, non escludono l'attacco preventivo. Se la Corea del Nord dovesse avere la consapevolezza o la certezza anche erronea che gli americani stanno per attaccare, potrebbe decidere di colpire per prima. È un po' quell'equilibrio che c'era durante la guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, con una differenza, come ho scritto ieri sul Mattino, che a quell'epoca c'era la linea rossa, nei momenti critici leader si parlavano. Qui se una linea rossa non c'è, e se c'è ma la linea rossa, Pechino. Ma la linea rossa fra gli Stati Uniti e Pechino non basta? Esattamente, se non c'è una linea rossa fra Stati Uniti e Pyongyang, ma se ci fosse passerebbe attraverso Pechino. È perché lei dice l'idea di riunire le due Coree è un'idea impossibile per la Cina. Ma poi la Cina non può neppure accettare che ci sia questa grande presenza militare americana giustificata alle porte di casa sua. La Cina sta cercando di imporsi come potenza stabilizzatrice nel Pacifico, è già in difficoltà con i paesi vicini per la sua pretesa di conquistare, di controllare gli arcipelaghi contesi nel Mar Cinese meridionale e settentrionale. In più la crisi nordcoreana, con una Corea interpretata da tutti come alleata di Pechino, aumenta la capacità e la giustificazione per un riarmo generale che certo Pechino vede in maniera negativa. Ecco, però Gaiani, un'ultima cosa, ma non agire in qualche modo e lasciare alla Corea del Nord la bomba atomica è davvero immaginabile? Cioè vivere continuamente sotto questo ricatto? Cioè, sia per la Cina che per gli Stati Uniti? Io penso che i negoziati di cui si parla in queste ore fra Cina e Nord Corea, che mirano a dare alla Cina la possibilità di poter dire abbiamo disarmato noi sul piano nucleare la Corea del Nord e in cambio garantendo alla Corea del Nord la copertura dell'ombrello nucleare cinese, sia la strada più facilmente percorribile in questo momento, però, o quantomeno la meno pericolosa. Però l'approvazione delle sanzioni all'ONU si sta allungando sempre di più, insomma Washington... Quanto può aspettare Pechino? Io credo che se Pechino riuscisse in poche settimane, in pochi mesi, a portare i nordcoreani a un accordo del genere, la Cina si fa garante della inviolabilità dello spazio aereo del territorio nordcoreano. In cambio Pyongyang rinuncia con ispezioni internazionali al suo programma atomico, beh allora a quel punto anche all'ONU le sanzioni dovrebbero cessare, il regime di Pyongyang si salverebbe, la Cina potrebbe vantare un grande successo diplomatico internazionale e Trump potrebbe dire di aver disarmato Seul, di aver disarmato Pyongyang, cosa che non erano riusciti a fare i suoi predecessori. La strada c'è. Paradossalmente il fallimento del test missilistico dell'altro giorno ha tolto un po' di spazio alle armi e lascia un po' più di spazio al negoziato. Insomma, una linea Kissinger rinnovata, insomma. Beh, a volte ce n'è bisogno. Dopo tanti lanci di missili e superbombe senza un senso strategico, un po' di buon senso forse aiuterebbe. Grazie Gaiani, grazie. Ecco Mario, uno scenario dove però nessuno vince, insomma. No. Come nella scena finale perché, di War Game. Sì, perché quando c'è l'arma nucleare il tema diventa quello del first strike, cioè chi colpisce per primo, come diceva giustamente Gian Andrea Gaiani in collegamento. Quando tu hai il nucleare, hai un'arma letale che però ha la controindicazione che poi... La puoi usare una volta sola. Sì, perché poi arriva il secondo lancio. Degli altri. Degli altri, comunque. Ma intanto in tutto questo il nucleare perché iraniano come avanza? Perché sono forze decentrate, capito? Secondo te regge l'accordo con gli Stati Uniti? Questo non posso darti una risposta, perché comunque c'è una versione data dagli Stati Uniti a cui tutti dovrebbero credere, poi c'è un'altra versione data dagli iraniani a cui tutti, anzi cui nessuno vuole credere, e cioè che nel senso che la produzione nucleare non è finalizzata a scopi militari. Ci sono state, questa è la versione iraniana, sì. Ci sono state anche delle ispezioni che hanno confermato la versione iraniana, ma che non viene accettata ovviamente dagli Stati Uniti né tantomeno dai suoi alleati, tra i quali mi pare ci sia anche l'Italia. Detto ciò, la situazione è completamente diversa. Lì c'è una società che vive nel mondo e si nutre del mondo. Non mi Vabbè, pare quindi il problema non è quello per ora. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Eccola. I am not done changing, out on the run, changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. I met me someone changing, we had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I'm done changing. Some of us stopped running, some of us went home, some of us don't got one, so we'll build one of our own. Friends behind the fence. Allora? E c'era Eraclito oggi in metropolitana, arrivava da Efeso e girava il lungo e il largo tra le fermate, le corse, le linee, le scale mobili, fino a riprodurre la circolarità del tutto che torna. Ha chiamato Zarathustra, ha voluto questo brano da dedicare alla più pazza tra le stelle del caos danzante, con un messaggio: un abisso ci guarda, guardiamolo. I see the sky changing, reminds me of my changing. Wish I could tie me a rope around the sun, 'cause I am not done changing. Allora, Mario? Andiamo. Noi dove andiamo? In Italia. I've been talking to the wall and it's been answering me. Oh darling, how I miss you. I'm just a mere shadow of my former selfishness. I crave the silhouette of your kiss. No, Elvis Costello ci sta bene in fondo, perché dobbiamo parlare di Beppe Grillo, il quale ha dato un'intervista, cosa che non è già, non fa tutti i giorni, diciamo, come altri leader politici, e questa già sarebbe una notizia. La notizia però secondo me è che l'ha data su Avvenire, l'ha pubblicata il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, quindi il giornale dei Vescovi, è abbastanza importante già come fatto in sé, non so se sei d'accordo. Assolutamente, Giovanni. Mi sembra una notizia. La cosa è abbastanza interessante secondo me, perché oltre al fatto che giornalisticamente ineccepibile tu intervisti un leader, ma si presenta come dire un fatto, cioè la Chiesa è in ascolto, come spesso capita nei passaggi storici cruciali, importanti, nelle svolte appunto. E cosa ha detto Grillo? Sì, ci sono tante cose che fanno parte del suo immaginario. Ha detto che Trump è la fine della sinistra frufru. Questo lo diciamo un po' anche noi da tempo. Da tempo. L'Europa, dice, è come una gita in bicicletta dove partono 27 persone completamente diverse, dice, un paio di ciclisti professionisti e poi tanti dilettanti, fino al novantenne che ha avuto due infarti. Dice, arriverà primo ovviamente il ciclista più forte, provando a tenere il ritmo, e gli altri si sentiranno male o addirittura schiatteranno. Che in fondo è una metafora, se vogliamo, per di dire questa... comanda la Germania per sempre. Sì, e in fondo è la certificazione dell'Europa a due velocità, quindi anche questa non mi pare un'iperbole, diciamo, messa così. Sul governo lui dice una cosa che secondo me è vera, cioè lui dice: noi non abbiamo una strategia per arrivare a Palazzo Chigi, ed è un po' come il frutto che cade dall'albero, la sua idea è questa, cioè lui dice: immagino che questo risultato sia auspicabile come un fenomeno naturale generato da gente che è decisa a scendere sulla terra. Ora si capisce. Ma parla anche del suo programma, se capitasse questo frutto inaspettato? No. Secondo me loro il programma lo stanno presentando in questi giorni, come sanno molti, insomma noi lo stiamo seguendo, ieri hanno presentato il programma di politica estera. Ora, secondo me non hanno un programma, perché nessuno sa... Il programma di politica estera è interessante perché né con gli Stati Uniti né con la Russia. Con nessuno. Una linea, una linea un po' la Piriana, visto che usi l'esempio del... di Avvenire. Secondo me, io uso l'esempio di Avvenire, adesso mi hai dato proprio il chiodo al quale appendere il quadro finale, ho un sospetto, anzi ho più di un sospetto, ho molti indizi che mi conducono a pensare che il quadro del Movimento 5 Stelle è Papa Francesco. Cioè che loro stiano avvicinandosi sempre di più alle cose che dice il Papa. Poi ovviamente tra quello che dice il Papa e quello che realizzano loro ci passa un oceano. Però è interessante. Si propongono come una nuova democrazia cristiana da riempire di contenuti? Ma lo deve fare la Chiesa allora, perché di loro non è che hanno molto, diciamo. Però è tutto interessante questa evoluzione. Avvenire che fa l'intervista pubblica, eccetera. Francesco che dice quelle cose, e presentano il programma di politica estera e non a caso... anche un'estetica da oratorio. Aspetta. Un'estetica da oratorio. Sì, ma non a caso citano la Terza Guerra Mondiale a pezzi. Cioè se uno mette insieme tutti questi sassolini sul sentiero, qualcosa sta succedendo. Ma le stiche dell'oratorio ti piace o no? Tutto ciò che è popolo è lecito ed è perfetto. Cioè ti piace? L'estetica del dell'oratorio popolo, ti piace? Popolo. L'oratorio è popolo o no? Certo sì. Che è popolo. No, perché popolo. Volevo farti dire che l'oratorio purché sì. Perché ci sia Padre Pio, no? Scusa, Don Milano. Però le tirate state tirando le domande, perché allora io vi dovrei chiedere se gli scout sono popolo. No. No, gli scout sono popolo anche loro nelle azioni cattoliche. No, vabbè. Le processioni sono popolo. Sì, va bene. Le professioni fatte dagli scout, come la mettiamo? Infatti, avete notato, no, a Venezia il parroco che non dice, che chiude chiesa perché non c'è nessuno, invece a Barrafranca tutti sotto il crocifisso, al punto tale che il crocifisso si è pure rotto. Vai con Salamino, va. Donald Trump si prepara al suo primo vertice, quello più importante, perché caro Giovanni, caro Mario, non è stato quello con la Cina, non è la Russia può attendere, chi? E la Corea del Nord invece sta chi va là, perché lo sai, giusto Mario, l'America è first e quindi spara per prima. Ben altro è l'incontro, il vertice più importante, ben altro rispetto a quello che c'è stato tra Vladimir Putin e, ve lo ricordate? Vorrei ancora una volta ringraziare il signor presidente Sergio Mazzarella. Non è Sergio Mazzarella. Chi è che l'ha detto? Ha sbagliato. Mattarella. Chi è che l'ha detto? E l'incontro con Putin lì in Russia lo sanno assentere Mazzarella. È veniale. Va bene. Finiscila. Allora, lo sapete quale sarà l'incontro più importante? Quale? Quello col premier del governo italiano. Tutti in piedi. Il conte Paolo Gentiloni Silveri con la I lunga domani sarà negli Stati Uniti. Oh, fonti accreditate fanno sapere che Trump non fa un passo senza consultare prima il conte Paolo Gentiloni Silveri. Per esempio, Donald, per esempio, voleva prendersi un Vespino, una bella Vespa per portarsi Melania in gita, ma Gentiloni, smart com'è, l'ha sconsigliato. Dice, prenditi un chopper. Donald, un altro esempio, voleva dissetarsi, acquistare una bella scorta di acqua a San Pellegrino, ma Gentiloni, sobrio com'è, gli ha suggerito, attaccati al rubinetto perché l'acqua del sindaco è sempre la migliore. Impara tutto dal conte Paolo Trump. Il presidente americano, per esempio, vuole fare muri, ma il conte Paolo, approfittando della decisione di Del Rio, va oltre. Sapete qual è la decisione Del Rio? Gli ha detto di fare dei... No, a cestinare definitivamente il progetto del ponte di Messina, perché ci cadono tutte fiori. Che cosa succede col ponte di Messina? Allora, con i soldi risparmiati propone il conte Paolo Gentiloni di fare una muraglia lungo tutto il perimetro della penisola e delle isole maggiori, mentre in quelle minori tipo Lampedusa farà tante Guantanamo. A un mese esatto dal vertice del G7 a Taormina, i due leader si confronteranno domani alla Casa Bianca e già sul tavolo ci sono i temi caldi della scena internazionale. Trump, che è ancora poco esperto in materia di politica, ha fatto sapere di attendere proprio la giornata di domani per avere le giuste indicazioni sulle questioni aperte, perché c'è intanto la questione Siria, poi c'è la questione della Corea del Nord e poi, perché no, anche i prezzi delle campagne in Toscana, perché dice Trump che in zona Chianti si vorrebbe comprare un terreno per produrre olio. Ora, penso, a parte il fatto che l'olio migliore è quello della Nocellara del Belice, dunque a Castelvetrano, il conte Paolo convincerà Trump a versare quelle quote NATO che l'amministrazione americana, a differenza di Angela Merkel, dimentica sempre di pagare. L'Italia, pilastro della NATO tanto quanto la Turchia di Erdogan, ha messo altri 15 miliardi oltre ai 17 già versati per le spese militari, e ha anche mobilitato ben 10.000 precari della forestale siciliana, almeno 10.000 sì, mi risulta, per meglio difendere gli statisti in arrivo a Taormina, ma soprattutto tra gli statisti difendere chi? E però Giovanni, però Mario, no, non chi pensavate voi, no, ho fatto sapere che la soave, severa e serena Maria Etruria Boschi non ci sarà a Taormina, non ci sarà a Taormina, perché già quante occasioni si è perduto il povero Matteo suo, figurati se può andare lei ad aprire una ferita così sanguinante, no, i flash, i riflettori, i microfoni, i taccuini, insomma tutto sarà per Melania Trump, che se ne starà all'isola bella, nel bel mare della Baia tra giardini e schisò, con Colapesce in persona a fare da guardia d'onore, perché questo è... Hai visto la politica estera? essere ridotta in un salamino. 800 24 00 24, numero verde. No, no, ce n'è, ce n'è per il Gentiloni, si fa sentire. 349-238-6666, l'SMS è pubblicità. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Mix 24. Il 2 settembre del 1980, due giornalisti italiani, arrivati 10 giorni prima in Libano per raccontare la guerra civile, scompaiono senza lasciare tracce. Si tratta di Italo Toni e Graziella De Palo. 51 anni lui, giornalista esperto di questioni medio orientali, 24 anni lei, giovane collaboratrice del quotidiano Paese Sera. Italo Toni era un giornalista, diciamo, sui generis, molto particolare per quegli anni, nel senso che era un giornalista che non accettava la strada normale del giornalismo, voleva essere, come dire, attore della sua professione, e comunque era un giornalista non integrabile nel sistema, cioè era un giornalista che voleva fare il suo mestiere. Graziella era una ragazza di 24 anni, piena di passioni e anche di una grande sensibilità verso tutti quelli che erano deboli, emarginati, oppressi. Forse a caccia di scoop, come centinaia di altri giornalisti, Italo e Graziella, sbarcati a Beirut, si trovano inghiottiti in un paese che da 5 anni combatte una guerra civile. E andare a caccia di notizie in un paese come il Libano non è certo facile. E forse i due giornalisti finiscono in un gioco molto più grande di loro, intrappolati probabilmente nel groviglio politico-diplomatico dei rapporti tra Stato italiano e organizzazioni palestinesi. Diverse le ipotesi che negli anni si sono fatte: un sequestro finito male, o forse i due sono stati scambiati per spie. Probabilmente erano a caccia di notizie su traffici d'armi e rotte internazionali. Di certo c'è che i due giornalisti, il 2 settembre dell'80, vengono inghiottiti nel buco nero della guerra civile libanese, scomparendo nel nulla. E a distanza di quasi 37 anni i loro corpi non sono ancora stati trovati. Dopo il giornale radio ricostruiremo questo caso della scomparsa di Italo Toni e Graziella De Palo. Intanto, Mario, hai ancora una bolla? Sì, nessuno. Allora, Kings of Leon. Sì, volevo parlare di Brexit e voto, perché oggi alle 12.30 ora di Londra, quindi 13.30 in Italia, Theresa May chiederà, il governo inglese chiederà con una mozione di votare in anticipo elezioni anticipate per l'8 giugno. Tutti si sono sorpresi di questa decisione del primo ministro inglese. In realtà non bisogna sorprendersi. È una coerenza, insomma, rispetto, sì, alla Brexit. Assolutamente sì. La May dice: io devo condurre trattative molto dure con l'Unione Europea per 2 anni, voglio un mandato pieno, certo, e quindi chiedo al popolo britannico di votare per questo programma. Uno potrebbe dire Theresa May rischia parecchio. In realtà il partito conservatore inglese ha 20 punti di vantaggio in questo momento sul Labour. Jeremy Corbyn è in grande difficoltà, il leader dei laburisti. Oggi voteranno sì, ma sono spaccati, anche loro sono per le elezioni anticipate, ma non c'è l'unanimità. Non accadeva dai tempi dall'83, mi pare di aver letto oggi, che un partito andasse alle elezioni con un vantaggio così consistente. Quindi, se volete, dietro la comunque richiesta, è coerente la scelta della May, assolutamente, che... e c'è un timing preciso, cioè la scelta del tempo è quella giusta, certo, è messa in una posizione tale che difficilmente può perdere. Francia, Germania, Inghilterra stanno votando tutti. C'è un filotto in corso. Quindi, incredibile. In fondo anche Renzi, che vuole votare prima possibile, sta dentro questo schema. Allora, la tua osservazione ha una sua ferrea logica. Il problema è sempre quello: siamo pronti dal punto di vista istituzionale? Cioè, noi non abbiamo la legge elettorale, non c'è quel piccolo particolare, c'è quel piccolo particolare, certo, e questo denota tutta la stranezza italiana. Noi potremmo andare a votare, sì, appena il Parlamento deciderà di fare una legge elettorale, che è molto divertente, non c'è, è questo. Infatti, il punto, il referendum serviva, no? Si diceva appena fatto il referendum, appena fatto il referendum si farà la legge. Già, vabbè, aspetta e spera, siamo al caro amico. Oh, 4 dicembre era, fate voi i conti. E intanto adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine marzo 2017. Morbo ciliaco e alterata sensibilità al glutine o al grano. La malattia celiaca, il morbo celiaco, è caratterizzato dal malassorbimento. Quando il quadro è avanzato, in genere ormai viene diagnosticata nelle fasi precoci, quando c'è solo una diarrea prolungata senza perdita di peso o, alternativamente, una stipsi. La diagnosi viene fatta attraverso test immunologici e la biopsia del duodeno in persone geneticamente predisposte. Solo quando questi test e la biopsia è positiva si parla di morbo celiaco. In questi casi la mancata assunzione di glutine, tipicamente contenuto nella pasta ma non solo, porta alla remissione della sintomatologia e alla guarigione delle lesioni e il paziente torna assolutamente come prima. Il mercato infatti è strapieno di prodotti gluten free e ci sono però sempre di più persone che non hanno una diagnosi di morbo celiaco ma praticano un'alimentazione gluten free, cioè senza glutine, perché la ritengono più sana. Bene, gli autori cautelano queste persone perché dicono che si rischia, per chi non ha il morbo celiaco, un aumento di peso perché si è maggiormente esposti al consumo di grassi e zuccheri. Si conclude che è meglio non raccomandare, perlomeno per periodi lunghi, chi non ha una precisa diagnosi di morbo celiaco, una dieta prolungata, appunto priva di glutine. E semmai c'è da considerare la sorella del morbo celiaco, che è una sensibilità aumentata al glutine, ma che è una malattia sovrapponibile alle malattie funzionali come il colon irritabile, che possono essere curate non solo con l'astensione dal glutine, ma con le terapie tradizionali del caso. Chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi nella guerra e nella pace ama avere solo a che fare con chi è sovrano tra gli animi. Litfiba, Regina di Cuori. Donna meravigliosa, sei donna pericolosa, ti fondi e mi confondi, mi cerchi e poi ti perdi così. Io non so l'amore, guerra o pace, o collaborazione, grande partecipazione. Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella.